giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. All'indomani della sentenza sulla strage di Viareggio, la richiesta dei familiari delle vittime, Moretti si dimetta. Terrorismo, arrestato in Germania, un cittadino tunisino sarebbe ricercato dell'attacco al Museo del Bardo. Dovrebbe arrivare oggi la risposta dell'Italia alla commissione sulla manovra, Roma contraria a nuove tasse. Prosegue l'emergenza inquinamento, PM10 tre volte sopra i limiti in tutta la Lombardia, possibili sanzioni da Bruxelles. Roaming internazionale da metà giugno, cadono le ultime barriere in Europa, accordo raggiunto sui prezzi tra operatori. Avrebbe sequestrato e stuprato l'operatrice di un centro di accoglienza, arrestato un migrante. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece se ci volete scrivere. All'indomani della sentenza sulla strage di Viareggio, dunque iniziamo da qua, i familiari chiedono l'uscita di scena di Moretti. Il giorno dopo, incassate le prime condanne per la strage del giugno 2009, i familiari delle 32 vittime di Viareggio concentrano su due nuovi obiettivi la loro battaglia: le dimissioni di chi è ancora in aziende di Stato, a cominciare da Mauro Moretti, condannato a 7 anni, e l'appello alla rinuncia della prescrizione. Per la prima volta dopo un disastro di massa, una sentenza inserisce tra i colpevoli non solo chi materialmente ebbe a che fare con la revisione della cisterna carica di GPL che poi esplose, ma pure i vertici della società che la affittò, la GATS, e di Rete Ferroviaria Italiana, perché avevano i mezzi per intervenire sulla sicurezza e non lo fecero. E questo, dice Marco Piagentini, a nome dell'associazione dei familiari, conferma le gravi omissioni del sistema. Noi chiediamo le dimissioni di chi ancora ad oggi è dentro gli enti statali o le aziende di Stato. Mauro Moretti e Margherita, con la sentenza di primo grado, comunque moralmente inaccettabile per noi familiari, che loro siano ancora a guidare questo paese in aziende di Stato, tra l'altro anche molto importanti. Il CDA di Leonardo Finmeccanica, al cui vertice ora siede Moretti, ha confermato subito dopo il verdetto di primo grado la fiducia nel manager, ma il tema, come già il presidente dell'Authority Anticorruzione notava, è di sensibilità. La nomina è in scadenza, ricorda Raffaele Cantone, e sarà la politica a dover fare questa scelta. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Germania adesso, dove un uomo è stato arrestato per terrorismo. Avrebbe partecipato all'attentato al Museo del Bardo di Tunisi, in cui morirono 21 persone, tra cui 4 italiani, il 36enne arrestato nel Maxi Blitz in Assia, in Germania. Il tunisino, che dall'agosto 2015 aveva aderito all'ISIS, è stato attivo come scafista, cercando anche di procurare nuovi adepti al califfato. In Germania l'uomo aveva costruito una rete e pianificava anche un attentato. I piani erano però in una fase iniziale e non vi era ancora un obiettivo concreto. Nel blitz di questa mattina a Francoforte e in tutta l'Assia sono 16 i sospetti jihadisti finiti in manette. Gli agenti di polizia hanno passato al setaccio decine di edifici, tra appartamenti privati, imprese e moschee. Intanto, sempre questa mattina, il governo tedesco ha approvato il ricorso al braccialetto elettronico per i soggetti pericolosi ritenuti a rischio attentati. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Veniamo alla politica economica italiana, correlata naturalmente alle vicende europee, perché oggi dovrebbe arrivare la risposta italiana a Bruxelles sulla manovra. La lettera di risposta ai rilievi europei sui conti pubblici sarà spedita oggi e conterrà le linee guida sulla correzione da 0,2% di PIL, ossia 3,4 miliardi, chiesta da Bruxelles 2 settimane fa. Il governo rispetta così le scadenze, dicono al Tesoro, anche se la manovra dovrebbe arrivare non prima di aprile a ridosso del DEF, il documento contabile programmatico. Il meccanismo per mettere in sicurezza i conti potrebbe articolarsi in 3 mosse. Assestamento di bilancio con la contabilizzazione delle maggiori entrate legate alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. Lotta all'evasione, soprattutto dell'IVA, e ritocco sulle accise di benzina e sigarette. Tutti interventi che dovranno rispondere però all'imperativo di non deprimere la crescita e da inserire in una strategia di politica economica di medio-lungo periodo, considerando anche la situazione creatasi dopo le numerose scosse di terremoto degli ultimi mesi. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E concentriamoci proprio su questo punto, quest'idea di una zona franca. 67.000 imprese in ginocchio, industriali, artigiane, commerciali, ma anche microimprese di allevatori e agricole, per 134 comuni in Italia centrale, molti dei quali già flagellati dagli eventi sismici e ora dal maltempo, è in arrivo una zona franca fiscale. Si tratta di una sorta di borsellino fiscale a disposizione delle imprese, un credito d'imposta che consentirebbe alle PMI di scontare IVA, IRPEF e IRAP e IRES, un passo oltre la semplice sospensione del pagamento delle tasse prevista fino a settembre 2017, che prevede che rimangano ma dovranno comunque essere versate alla scadenza dello stop. Invece il decreto guarda avanti con una zona franca sul modello post terremoto in Emilia, perché le aziende del cratere ne beneficiano a prescindere dal danno subito. L'impegno del bonus fiscale si aggira tra i 100 e i 200 milioni, ma secondo Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali CNA, tutto questo non basta. Deve andare oltre la sospensione e deve anche riconoscere per 2-3 anni, quindi a partire da quest'anno, per 2-3 anni, una esenzione dai tributi dovuti dalle piccole imprese, e che per coprire questa esenzione, perché individuare quale percentuale di esenzione ha su questi tributi, si devono stanziare delle somme sufficienti per arrivare a una percentuale dignitosa che superi almeno il 60%. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E restiamo sui rapporti difficili con l'Europa, ne abbiamo parlato poco fa nel servizio sulla manovra, rapporti difficili che passano anche dalla possibile procedura di infrazione per lo smog che colpisce una serie di città. Mentre Roma risponde a Berlino sui conti pubblici, Bruxelles starebbe scrivendo a Roma per la bassa qualità dell'aria, almeno stando a indiscrezioni di stampa, che giungono proprio a puntino, malignano alcuni, perché una procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva aria ci indirizzerebbe verso una sanzione milionaria. Malignità a parte, però, l'aria è davvero cattiva in troppe città italiane, specie quest'anno, che sul nord non piove seriamente da novembre. In gennaio, 9 città, tra cui Frosinone, si sono già giocate 15 dei 35 giorni di sforamento dei limiti di PM10, previsti nella normativa per la tutela della salute. In Lombardia le polveri sottili viaggiano su valori 3 volte superiori al limite di 50 microgrammi al metro cubo. A Venezia si è arrivati a quasi 4 volte il limite, però. In Emilia-Romagna si segnalano ormai sforamenti in 37 centri urbani su 42, quindi anche i più piccoli. Ci vogliono politiche innovative per i trasporti, il riscaldamento e le produzioni industriali, dice Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera, ed efficienza amministrativa. Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto alla mia interrogazione confermando che dei 50 milioni di euro a disposizione da qualche anno per la realizzazione di ricariche per i mezzi elettrici, ne sono stati impegnati al momento attuale meno del 10%. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E restiamo sulle vicende europee per parlare però in questo caso del roaming internazionale. Su questo fronte arrivano buone notizie. È da anni una delle promesse dell'Unione Europea, azzerare i maggiori costi che un cittadino sostiene all'estero quando telefona o naviga in internet dal proprio telefonino. L'ultimo pezzo di un complesso meccanismo ad incastri è stato trovato questa notte ed è un nuovo schema di tariffe all'ingrosso, quelle cioè che un operatore, ad esempio italiano, paga all'operatore straniero quando il cliente italiano si trova all'estero. Dal 15 giugno, quando scatterà il roaming zero, un operatore pagherà 7,7 euro al gigabyte, per poi calare ulteriormente ogni anno fino al 2022. Il paradosso è che le tariffe del mercato libero all'interno dei confini nazionali sono già oggi più basse di quello regolamentato transfrontaliero, con il risultato che su molti profili tariffari l'operatore che deve garantire il roaming all'estero andrà in perdita. Ma se per i grandi gestori telefonici sarà più facile compensare tra di loro il traffico transfrontaliero, la sostenibilità per gli operatori più piccoli è a rischio. In ogni caso, dal 15 giugno scatterà ufficialmente il roaming a zero, cioè si pagherà solo quello che si pagherebbe all'interno dei confini nazionali, ma come già stabilito da tempo, con alcuni limiti per evitare abusi come il caso di chi stabilmente usa una SIM straniera. Insomma, roaming zero solo per chi viaggia. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. 200 milioni di euro stanziati dall'Italia per rafforzare la frontiera esterna per evitare le partenze dei migranti irregolari. L'obiettivo strategico del Fondo per l'Africa, presentato oggi dal ministro degli esteri Angelino Alfano per avviare una collaborazione su questo fronte, soprattutto con Libia, Tunisia e Niger. Con questo decreto, appunto, per la prima volta vengono destinate risorse ad hoc per la gestione della frontiera, ha riferito lo stesso Alfano. Restiamo sui temi dell'immigrazione. Un ospite di un centro di accoglienza è accusato di violenza sessuale. Un albergo di lusso completamente abusivo, sequestrato 6 anni fa, oggi sede di un centro di accoglienza per migranti sul litorale di Barcaturo. Dal lusso al degrado, alla paura, come quella che si leggeva negli occhi di una operatrice sanitaria 62enne al lavoro nella struttura, salvata grazie a quello sguardo terrorizzato dall'aggressione di un nigeriano di 25 anni. L'aveva costretta a chiudere a chiave la porta del suo ufficio e a subire violenze sessuali, ma una collega ha cercato di entrare ed il nigeriano ha intimato alla 62enne di aprire la porta e fingere che fosse tutto sotto controllo. Per lei hanno però parlato quegli occhi e la collega ha avvisato il 112. Il nigeriano è ora in carcere a Poggio Reale. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica italiana, lo scontro ancora aperto nel Partito Democratico, alle ipotesi di elezioni presto e di un asse tra il PD, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Elisabetta Fiorito, gli snodi di oggi, vai. Sì, nel dibattito all'interno del PD entra anche l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che sposa la linea però della minoranza Dem. Nei paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno. In Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate. Bisognerebbe andare a votare o alla scadenza naturale della legislatura o quando mancano le condizioni per continuare ad andare avanti. Quindi bisogna togliere la fiducia al governo. Questa in sostanza quello che dice Giorgio Napolitano. Un'opinione quindi contraria a quella del segretario PD Matteo Renzi, che auspica il voto a giugno senza un congresso, reclamato invece dalle altre correnti del partito. E uno di questi che va proprio contro Renzi è il presidente della Puglia Michele Emiliano. Sentiamo quanto ha detto a Radio 24. Il giochetto è semplice: descriviamo Emiliano come il candidato di D'Alema, così lo azzoppiamo prima ancora che parta. È una bellissima tecnica. Io non ci sto, perché io non ho mai fatto di parte di nessuna corrente del PD, non sono mai stato d'alemiano, anzi ho fatto spesso discussioni molto dure con D'Alema, che rispetto e ascolto, ma io non ho mai fatto parte, diciamo così, dell'entourage d'alemiano, e sono sempre stato solo dentro il Partito Democratico. E una delle critiche di Emiliano è proprio che Renzi abbia sbagliato tutto. Per Roberto Speranza, inseguire i grillini e la Lega, come fa Matteo Renzi per il voto subito, vuol dire tirargli la volata. A te, Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito, un punto anche oggi da Roma e dall'amministrazione del Movimento 5 Stelle, stretta tra notizie che arrivano su presunti dossier, poi smentite dalla sindaca Raggi, e la vicenda dello stadio di Roma. Sentiamo. La scadenza è il 3 marzo, è entro quella data che si deciderà il futuro del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. La conferenza dei servizi riunita in regione ieri ha accettato il rinvio di un mese chiesto dal comune per presentare la sua delibera indispensabile per lo sblocco dell'opera. Nei prossimi giorni dovrebbe ripartire il dialogo fra il Campidoglio e la AS Roma, ma il vero nodo da sciogliere è quello all'interno del Movimento 5 Stelle romano, diviso fra chi è disposto a dare il via libera alla realizzazione dello stadio, chiedendo però un taglio netto delle cubature, e chi invece resta contrario perché l'opera dovrebbe sorgere in una zona da alcuni considerata a rischio inondazioni. Favorevole alla prima soluzione è la sindaca Raggi, che nel frattempo si prepara ad essere sentita dai magistrati che l'hanno indagata nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. La data dell'interrogatorio non è stata ancora fissata, ha fatto sapere oggi il suo legale, che ha smentito l'esistenza di un dossier contro il pentastellato Marcello De Vito, realizzato per favorire la Raggi nella candidatura al Campidoglio, un dossier nel quale, secondo alcuni giornali, avrebbe avuto un ruolo chiave Raffaele Marra, l'ex fedelissimo della sindaca, ora in carcere per corruzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Giro per l'Italia che ci porterà in Liguria, dove a quanto pare sono, per un ritardo della regione che si è scordata a chiedere i soldi, sono bloccati i fondi per l'alluvione. E poi andremo anche a Trieste, dove un giudice ha deciso che un bimbo conteso tra due genitori deve decidere lui da chi andare. Il problema è che il bimbo ha 6 anni. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle conseguenze della sentenza sulla strage di Viareggio, della richiesta dei familiari delle vittime di dimissioni di Moretti dai vertici Leonardo Finmeccanica. Abbiamo parlato di terrorismo con l'arrestato in Germania sospettato di far parte del comando della strage del Bardo. Abbiamo parlato della manovra, dovrebbe arrivare oggi la risposta dell'Italia. Abbiamo parlato anche dell'inquinamento del PM10 tre volte sopra i limiti in tutta la Lombardia. Un inquinamento, quello della Lombardia e di buona parte del nord Italia, dovuto anche al fatto che non piove da mesi. Non è sempre stato così in questo periodo. Vi ricorderete per esempio nel 2014 che ci furono una serie di alluvioni. In particolare ci riferiamo a quelle in questo caso dell'ottobre del 2014 e ci riferiamo alla Liguria. Liguria per la quale erano stati stanziati dei soldi. Questi soldi non sono mai arrivati. E perché non sono mai arrivati? Perché a quanto pare la regione Liguria si è dimenticata di chiederli allo Stato. Saluto Giorgio Cangiano, che è il sindaco di Albenga. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Ma buongiorno. È così? Cioè la regione si è dimenticata di chiedere i soldi? Ma guardi, noi sono veramente... purtroppo senza parole, nel senso che noi, io e il sindaco di Ceriale, che siamo insomma, le due città che hanno subito la maggior parte di danni proprio derivanti da questa alluvione 2014, a fronte del fatto che si rincorrevano queste voci sul fatto che non arrivavano i risarcimenti, non si capiva perché, non perché, siamo andati direttamente al Ministero per avere dei riscontri e purtroppo ieri questo funzionario del Ministero, del MEF, ci ha detto che era stata creata proprio appositamente per questo problema del 2014 questa nuova possibilità di ottenere finanziamenti, risarcimenti con somme messe a disposizione anche per la regione Liguria, e bisognava fare chiaramente delle richieste specifiche fatte con determinate modalità che erano di competenza della regione, perché la regione ha ricevuto per quantificazione di danni, stiamo parlando di 16 milioni di danni da tutte le associazioni di categoria. Però poi il funzionario, che mentre altre regioni questa richiesta l'hanno fatta, la regione Liguria non l'ha presentata con le modalità e nei termini previsti, e quindi questo finanziamento... Ma cosa è successo? Si sono dimenticati. Lei ha parlato con l'assessore, perché noi abbiamo cercato anche l'assessore Stefano Mai, va detto oggi era impegnato in una serie di appuntamenti istituzionali a Roma, non è che sono tutti sempre disponibili ovviamente per noi giornalisti, come è giusto che sia, fanno anche il loro lavoro. Lei ci ha parlato con Mai, che le ha detto? No, noi avevamo fatto anche un incontro con l'assessore, cioè l'avevamo poi fatto venire anche qua ad Albenga, cioè lui dice che in realtà sono stati fatti, che non era chiaro come deve essere fatto, che comunque la protezione civile dice che comunque arriveranno, cioè io non so, noi ci hanno detto le cose in modo molto, molto chiaro, e purtroppo quello che ci hanno detto è questo. Io credo che in tutte le cose, se c'è un problema, l'unico modo per non superarlo è se non si affronta. Allora, se esiste questo problema, come ci hanno detto, noi dobbiamo affrontarlo. E devo dire, c'è la verità, nell'incontro che abbiamo avuto ieri si è mostrata anche una disponibilità a cercare di vedere, di recuperare questa situazione, sì. Perché tutti si sono resi conto. Cioè, se nelle more, perché questi soldi sono stati destinati ad altro, ho capito bene. Giustamente, cioè lo Stato dice, vabbè, non l'avete chiesti, io me li utilizzo, li metto da qualche altra parte. Questo, no? Con tutto quello che è successo in Italia, giustamente, se ci sono delle somme e possono essere utilizzate per delle emergenze, vengono utilizzate per queste emergenze, quindi chiaramente le richieste sono molte. Però quello che noi abbiamo evidenziato è che per Albenga, per Ceriale, questo diventa un fatto che è devastante, perché lei pensi che aziende che veramente Albenga chiaramente ha nel settore agricolo la sua punta, no? Però aziende che hanno avuto 500-600 mila euro di danni, perché è una cosa devastante, consapevoli che doveva arrivare questo risarcimento, si sono ulteriormente indebitate, no? Con le banche, perché certo, noi andiamo avanti, rifacciamo la produzione e sono ripartiti, sono riuscite, no? Però adesso si trovano in questa situazione che non solo non prendono risarcimento, ma hanno anche altri debiti. Quindi quanti soldi vi mancano, sindaco? Cioè quanti ne dovrebbero arrivare per voi, nello specifico, per il comune di Albenga? In realtà dei 16 milioni la zona Albenga Ceriale orientativamente avrà avuto intorno al 70% dei danni lì, quindi si capisce cosa vuol dire. È una cosa devastante. Ora, io oggi noi abbiamo fatto poi un incontro immediato, un tavolo verde con tutte le associazioni di categorie, con il signor Ceriale, per spiegare quello che ci hanno detto, e quello che è emerso a parte di tutti è lasciar perdere adesso, capire errori o non errori, perché cosa è successo o non è successo, che questo ovviamente poi va capito, perché poi va capito. Però adesso tutti quanti uniti vogliamo cercare di ottenere quello che è giusto ottenere, cioè questo risarcimento per queste persone, perché io francamente io durante quei giorni che c'era l'alluvione ho girato, il territorio era devastato, la gente era sconvolta, io quegli sguardi me li ricordo, cioè non posso pensare, ecco, che non riusciamo a ottenere quello che è diritto di queste persone a ottenere. Quindi l'impegno di tutti è fare il meglio, tutto quello che è necessario, sia col Ministero, con la Regione, con quello che possiamo per ottenere queste risarcimento, perché veramente è una cosa che sarebbe troppo grave. La ringrazio. Comunque, se vuole, qua c'è il signor Di Ceriale con me. Non ci preoccupi, perché mi sembra che la situazione sia sostanzialmente simile. Intanto la ringrazio. Grazie a Giorgio Cangiano, sindaco di Albenga. Approfondiremo magari anche nelle prossime ore. Vedremo se l'assessore Mai poi riusciremo a sentirlo nelle prossime ore e darvi maggiori dettagli su questa vicenda. Ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia a Trieste, dove c'è stata una decisione del Tribunale dei Minori. La notizia l'ha riportata Il Piccolo, che fa molto discutere. Il 13 febbraio in tribunale ci sarà un'udienza per la nomina di uno psicologo infantile. Perché? Perché il Tribunale dei Minori ha deciso che dovrà essere il minore di una coppia contesa a decidere se vivere col padre a Trieste o con la madre in Sud America. Il punto è che il bambino ha 6 anni e, insomma, come dire, la capacità di giudizio di un bambino di 6 anni non è esattamente quella di un adolescente o di un ragazzino di 18 anni. Alessandro Simeone è un esperto di diritto di famiglia nazionale ed europeo e componente della Giunta degli Avvocati Italiani di Famiglia. Buongiorno e benvenuto, Simeone. Buongiorno a voi. Allora, che cosa rappresenta una decisione di questo genere da parte del Tribunale dei Minori? Posto che naturalmente ci sarà l'intervento di una psicologa, cioè non è che chiedono, c'è cioè un giudice che chiede al bambino e gli dice dove vuoi vivere, con la mamma o col papà, e quello dice con la mamma o col papà, no? C'è una psicologa, però insomma è una decisione che ci ha colpito. Allora, la premessa ovviamente è che sarebbe opportuno leggere il provvedimento, perché da come è stato riportato sui giornali mi stupirebbe molto. È vero che l'ascolto del minore è previsto nella normativa solo nazionale, è prevista la normativa italiana dal 2012, è intervenuta la Cassazione, ed è importante che i bambini vengano, che la voce dei bambini sia ascoltata. È anche vero che la legge prevede che ci sia un limite di età, i bambini devono essere ascoltati se hanno almeno 12 anni, oppure se hanno un'età inferiore ma sono capaci di discernimento. Peraltro tutta la giurisprudenza, sempre italiana ma anche sovranazionale, dice che il bambino deve essere ascoltato, ma il giudice non è assolutissimamente tenuto ad adeguarsi pedissequamente e, passatemi il termine, bovinamente a quello che il bambino o il ragazzo dice nel corso della sua audizione. Quindi io sarei molto cauto nel giudicare questo provvedimento non avendolo letto, perché credo che sia strano che sia in realtà quello che emergerebbe dalla notizia. È molto più probabile invece che, come succede sempre, o meglio molto spesso, nei giudizi di separazione, di divorzio o comunque di affidamento dei figli, il giudice abbia incaricato uno psicologo, probabilmente uno psicologo dell'età evolutiva, per indagare non solo sulla volontà sic et simpliciter del bambino, ma per capire come questo bambino si relaziona con ciascuno dei genitori e come i genitori si relazionano tra di loro. Se invece la notizia, o meglio, se invece il provvedimento fosse esattamente quello riportato nella notizia, beh, ci sarebbe da rabbrividire, perché in primo luogo si creano, e non sarebbe il primo caso, dei bambini onnipotenti. Cioè, dire a un bambino, sei tu che decidi quello che vuoi fare della tua vita, a me sembra un po' a sei anni. Cioè, corriamo il rischio, e poi i casi di cronaca ne sono pieni, di creare dei futuri adolescenti onnipotenti che pensano di non essere più subordinati all'autorità dei genitori o pensano di poter fare quello che gli pare. Avvocato, nella sua esperienza, sì, le sono capitati casi simili oppure no? No, con bambini di 6 anni mai, nel senso, ho avuto casi, ed è quasi la norma, in cui se c'è un contrasto viene incaricato uno psicologo che fa delle indagini un po' più approfondite che non sono semplicemente l'ascolto del minore, ma è l'anamnesi sui genitori, l'ascolto dei genitori, la verifica delle capacità genitoriali. Mi è altrettanto capitato di ragazzi che abbiano espresso la loro volontà di vivere con un genitore piuttosto che l'altro, ma si trattava di ragazzi di 14, 15, 16 anni e soprattutto a fronte di genitori altamente conflittuali. Peraltro trovo veramente, non bizzarro perché è quasi la norma, ma mi lascio un po' perplesso anche questi due bambini, questi due genitori che delegano al loro figlio la scelta. Questo vuol dire che sono incapaci di ascoltarlo in realtà e sono incapaci di sentire e di capire quelle che sono le sue esigenze profonde. Ora poi questo è un caso particolare perché sì, la mamma vorrebbe portarlo in Sud America, il papà vorrebbe lasciarlo in Italia. Io credo che alla fine la decisione del Tribunale per i minorenni di Trieste non si baserà solo ed esclusivamente sulla volontà espressa dal minore, ma sarà un qualcosa di più approfondito. Di più approfondito e su vari elementi. Io non voglio credere, elementi, che un giudice deleghi a un bambino di 6 anni l'amministrazione della giustizia. Mi rifiuto anche solo di pensarlo. La ringrazio. Grazie Alessandro Simeone, che è esperto di diritto di famiglia nazionale ed europeo e componente della giunta AIAF, Avvocati Italiani di Famiglia. Resta il fatto della vicenda di un bambino di 6 anni e che vive da 6 anni, cioè dall'intero corso della sua vita, un caso di conflittualità tra i genitori che l'ha portato prima a vivere 3 anni in Perù con la madre e poi a essere riportato a Trieste, e adesso è in mezzo a questa battaglia legale. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi torneremo nelle zone colpite dal maltempo e dal terremoto, e poi una storia un po' più leggera che ci arriva da Bari, dove i vigili sono stati dotati e verranno dotati di smartphone, tra le altre cose, per fotografare e riprendere i proprietari di cani che lasciano le cacche là e non le puliscono. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia, nella prima parte della trasmissione i nostri titoli sono stati questi. All'indomani della sentenza sulla strage di Viareggio, la richiesta dei familiari delle vittime, Moretti si dimetta da Leonardo Finmeccanica. Per terrorismo è stato arrestato in Germania un cittadino tunisino, sarebbe ricercato dell'attacco al museo del Bardo. Dovrebbe arrivare oggi la risposta dell'Italia alla Commissione europea sulla manovra, Roma contraria a nuove tasse. Prosegue l'emergenza inquinamento, PM10 3 volte sopra i limiti in tutta la Lombardia. Roaming internazionale, da metà giugno cadono le ultime barriere in Europa, accordo raggiunto intanto sui prezzi tra gli operatori. Avrebbe sequestrato e stuprato l'operatrice di un centro di accoglienza, arrestato un migrante nigeriano. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta adesso nelle zone colpite dal terremoto e dall'ondata di maltempo. Notizia di pochi istanti fa, Enzo Rendina, che era uno sfollato di Pescara del Toronto, frazione di Arquata del Tronto, l'unico che non voleva lasciare il suo paese, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, Marco Bartoli, per il processo per direttissima. L'accusa è interruzione di pubblico servizio perché di fatto è rimasto in zone che erano interdette alla popolazione, addirittura nell'ultima fase viveva dentro la caserma dei vigili del fuoco. Questo per darvi l'idea della situazione piuttosto complessa che si sta vivendo, e anche questa sarà una vicenda che farà discutere senza dubbio. Ma nel frattempo quello che continua a far discutere, ve lo stiamo raccontando in questi giorni, sono quelle dichiarazioni della Commissione Grandi Rischi che hanno creato grande allarme nella popolazione e grande preoccupazione anche tra i sindaci che non sono riusciti ad avere un confronto chiaro su quello che devono fare, per esempio sull'apertura delle scuole. Ve lo stiamo raccontando quasi quotidianamente. Giuseppe D'Alonso è il sindaco di Crognaleto e siamo in provincia di Teramo. D'Alonso, buongiorno, benvenuto. Sì, salve, buongiorno a voi. Oh, tra l'altro mi dicono che lei è appena tornato da un giro che ha fatto su un elicottero della Forestale per andare a fare una verifica delle zone, soprattutto per quanto riguarda gli allevatori e gli allevamenti, no? Certo che sì, adesso c'è la seconda emergenza e cioè quella della conta dei danni. Stiamo calcolando quello che è stato il danno sulle aziende. Insieme alla Forestale abbiamo fatto una ricognizione dove ben 19 se non oltre capi sono dispersi, qualcuno lo abbiamo già individuato è morto ed altri insomma gli abbiamo portato il fieno dall'elicottero stesso. E non è solo questa l'emergenza, siamo alle prese anche con i dissesti idrogeologici, condotte che sono andate alla malora riferite all'alluzione idrica, e quindi stiamo cercando di fare anche dei bypass conservatori per alimentare alcune abitazioni che sono completamente non fornite dalla conduzione idrica, dall'adduzione idrica. Sì, perché quindi, come dire, noi abbiamo dato per certi versi l'emergenza per passata, in realtà questa emergenza non è passata per niente. E come si dice? Assolutamente no. L'emergenza ha una sua, un suo inizio, ha una sua fase finale, poi c'è la fase, diciamo, intermedia, e poi si va verso la conclusione. Noi siamo nella fase intermedia, adesso c'è lo scioglimento produce, come dicevo prima, gli smottamenti. Io dall'elicottero già ne ho visti tanti, addirittura l'ostruzione di alcuni importanti torrenti come il Rio Fucino, che è quello che ci lega alla diga di Campotosto. Sentivo prima insomma anche l'allarme che avete ulteriormente marcato, cioè quello della Commissione Grandi Rischi, che ha messo in difficoltà un'intera vallata. Siamo preoccupati poiché insomma non abbiamo la certezza di quello che succederà. Sì, da Alonso, che nello specifico per quanto riguarda la diga sono arrivate ampie rassicurazioni tanto dall'Enel quanto dal governo, tutte le verifiche sono state fatte su quel fronte. Dall'altra parte c'è la questione, D'Alonso, degli edifici pubblici, delle scuole. Lei è una delle persone che in una serie di dichiarazioni nei giorni scorsi ha detto: guardate, io qua non so che fare, al limite le chiudo sine die. No, allora, al momento le scuole sono chiuse in attesa di verifiche puntuali a seguito del sisma che c'è stato, per verificare lo stato di salute dell'edificio, ma il problema che ci poniamo i sindaci, non solo il sindaco di Prognaneto, io penso a Montorio, penso all'intera vallata, è che alla luce di quello che si è detto, che poi pur ridimensionato l'allarme stesso, ma insomma non è chiaro qual è il grado di vulnerabilità per cui noi possiamo aprire gli edifici pubblici, in particolar modo le scuole. Questo è il dramma. Stiamo pensando di magari delocalizzare. Mi scusi D'Alonso, voglio ricordarlo agli ascoltatori. Quando si vengono a fare delle verifiche, si fanno due tipi di verifiche. La prima è una verifica di agibilità, cioè se all'interno di quell'edificio si può entrare. La seconda è una verifica di, appunto, vulnerabilità, no? In un grado che va da 0 a 1 sostanzialmente, no? Se non sbaglio. Dove uno è la massima resistenza e zero è la minima resistenza ad un'eventuale scossa. Però nessuno certifica qual è il grado per il quale il sindaco possa riaprire la scuola. Mi sembra un discreto problema. Se uno mi dice è 0,7, però io non so se con 0,7 la posso riaprire, la devo tenere chiusa, e che cosa devo fare. Io so qual è il grado della vulnerabilità del mio edificio scolastico perché l'ho fatta fare così come dettato dalla norma. Però adesso il problema è che non so se quel grado corrisponde a una diciamo struttura sicura o meno. Questo quesito nessuno lo scioglie. Abbiamo posto la domanda al mondo intero, ma insomma il cerino come al solito rimane al sindaco, che deve prendere una decisione che giuridicamente va bene, ci può stare, siamo pronti a risponderne, ma moralmente insomma non è una cosa che vogliamo portare. Sì, che poi, ripeto, giuridicamente può portare a tutto quello che sappiamo, cioè abbiamo visto sindaci condannati anche penalmente per ma no. Questo non è il problema, perché noi sindaci siamo abituati ad essere posti alla gogna. L'importante è che si è sicuri di quello che si è fatto a beneficio del territorio. Il problema è invece di natura diversa, è la moralità. Se io dovessi pensare che succede qualcosa alle mie 54 perle, insomma credo che sia questa la vera problematica e non l'aspetto giuridico. La ringrazio, grazie a Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, e siamo in provincia di Teramo. A chiudere questa parte della trasmissione ci prendiamo un argomento più leggero, ma che sinceramente la nostra prossima tappa del Giro per l'Italia sarà a Bari, che sinceramente trovo interessante, perché insomma finalmente si iniziano ad utilizzare tecnologie che abbiamo tutti quanti nelle nostre mani, che sono molto semplicemente gli smartphone, anche a scopo pubblico. Succede a Bari, appunto. Abbiamo in linea Nicola Marzulli, che è il comandante della Polizia Municipale. Marzulli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, se ho capito bene, mandate in giro i vigili con gli smartphone da voi forniti, con i quali fotografano e riprendono i proprietari che non raccolgono le cacche dei cani. Ho compreso bene? Sì, da due giorni ormai ho una task force, ho costituito una task force che è su tutto il territorio cittadino, in particolar modo in zone dove maggiore è il fenomeno di abbandono delle direzioni canine, e che stanno utilizzando anche gli smartphone. Molti utilizzano i propri smartphone, molti agenti, altri quelli che abbiamo posto a disposizione noi come comando, anche se come il progetto. Ma cosa fanno? Li fotografano e poi che cosa? Fotografano e poi chiaramente li fermano, li generalizzano e poi contestano la violazione, è chiaro. Ma ci chiede un ascoltatore, agiranno anche in borghese? Perché se no non funziona, no? Perché no, uno vede il vigile che si avvicina con... Agiscono in funzione, escono dalle 5 la mattina, orari particolari, dalle 5 alle 9 principalmente, poi lo fanno nel primo pomeriggio dalle 14 alle 16 e ancora poi in orario serale dopo tra le 20 e le 22:30. Sento una cosa, in realtà è un metodo che state già utilizzando per altro, questo qua è che avete intenzione di estendere, cioè non riguarda solamente le deiezioni, per essere eleganti, degli animali. Abbiamo utilizzato anche per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, materiali di risulta e via discorrendo. Spesso e volentieri trovavamo, in particolar modo non, anche nelle zone periferiche, trovavamo un po' di materiale di risulta, un po', a volte anche parecchio, discorrendo, e abbiamo iniziato ad utilizzare queste microcamere prima e poi gli smartphone, dice. Gli smartphone proprio per fermare e registrare sul posto quelli che poi causano questi abbandoni. Il risultato è stato individuati parecchi. Ne abbiamo generalizzati, denunciati anche in parecchi. Ne avete denunciati in parecchi. E lo volete estendere anche alle auto, per così dire, alle infrazioni del codice della strada, no? Certo, tenga presente che abbiamo già ultimato una gara. Tra qualche mese, fin tanto che tutti gli agenti termineranno la formazione, andranno in giro solo ed esclusivamente con smartphone. Sugli smartphone ci saranno tante app per quanto concerne i vari tipi di funzioni, di attività che svolgiamo noi, che va dal semplice, tra virgolette, il codice della strada, ma che avranno infortunistica, avranno il penale, la procedura penale, avranno le violazioni amministrative a nona, testo unico, leggi di pubblica sicurezza, inserite tutte sullo smartphone, e con lo smartphone opereranno. Non avremo più necessità della carta, toglieremo del tutto carta, bollettari e via discorrendo. Non avremo più agenti con i bollettari, ma avremo soltanto agenti con il tablet o lo smartphone. Oh, non mi sembra vero, speriamo che sia davvero così. Vi aspettiamo al varco, Nicola Marzulli, comandante della Polizia Municipale di Bari. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Ci risentiamo alla fine per i saluti. E poi Mario Platero, naturalmente. Ci risentiamo alla fine per i saluti.